likewise. God is finest, wonder what after my prime is. Never underestimate your highness. Stripped in melanin, galaxy's finest. Put a bit of pressure on the spirit of the highest. Do it, I will, do it, I will. If they don't believe me, then you betcha I will. If they don't believe me, then you betcha I will. Better big up your love for the betcha I chill. E buonasera, quando sono le 19:38 secondi di martedì 30 novembre comincia una nuova puntata di Likewise. Donna Sonica e Pinklo per farvi ascoltare le nuove uscite e tutte le cose secondo noi interessanti che magari vi siete perse. Flying by the Africa, get the kids to breathe. Show them how the other half, how the world is. Show them how the other half, how the world is. Nah, they don't know. They don't know. They can't hold. They can't hold. They box, they box, they talk. I know they can't show. Please believe. Please believe. They deceive. They flex, they flex, they flex. I know they can't see. Ricordiamo che siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, che se ci volete chiamare 0649 1750, che è uscita la nuova scarceranda, la fine dell'anno si avvicina, procuratevi le agende e sostenete Radio Onda Rossa e venitecela a chiedere. E salutiamo anche le compagne e compagni dell'ora di buco che ci hanno precedute. Direi che siamo pronte per iniziare. Facciamo, presentiamo, mettiamo. No, diciamo soltanto che cosa stiamo per mettere. Loro si chiamano Grazie degli Linda, Lindas, e il pezzo, non a caso, cominciamo con questo, proprio quest'oggi, si intitola Racist Sexist Boy. Came up to me and said that his dad told him to stay away from Chinese people. After I told him that I was Chinese, he backed away from me. Eloise and I wrote the song based on that experience. So this is about him and all the other racist, sexist boys in this world. One, two, three, four! Fantastica teenage punk rock band, loro sono le Linda Lindas, ridi Finklo, vi dico i loro nomi. Il Lucia punk è morto ma vive il punk, cioè. non è morto affatto. Lucia 14 anni, Mila la batterista 11 anni, Della Garza, Eloise Wong 13 anni e Bella Salazar la più grande a 17 anni, sono tutte teenager, scrivono dei pezzi molto molto intensi come avete potuto sentire, non solo musicalmente ma anche per i testi, parlano delle storie che vivono, in particolare l'introduzione, non so se l'avete colta, di questo pezzo che racconta che un ragazzo si è avvicinato alla più piccola di loro, che è di origini asiatiche, dicendo: mio padre ha detto che non devo stare insieme ai cinesi. E lei la guardò e ha detto: io sono cinese. E lui se n'è andato. E quindi hanno pensato di scrivere in risposta a questo episodio che è accaduto poco prima del lockdown, questo pezzo che abbiamo sentito, Racist Sexist Boy, giusto per completare il quadro. Queste sono sempre loro, che sono musicalmente preparatissime, hanno aperto, loro sono di base a Los Angeles e hanno aperto il concerto dei Bikini Kill, non a caso, che insomma hanno ancora ascoltano ancora musica e quindi sono in grado anche di dare spazio sul palco alle giovanissime, come del resto erano loro quando hanno cominciato a cantare. Quindi ci sembrava anche giusto, dopo la bellissima e partecipatissima manifestazione della settimana scorsa, di partire con le nuove generazioni che affrontano questi temi apertamente. Adesso cambiamo un po' genere, ma restiamo sempre con una cantautrice molto giovane, si chiama Harlow Parks e il pezzo si chiama Heart. He didn't feel so small, so overwhelmed by all his flaws. I know you can't let go of anything at the moment. Just know it won't hurt so, won't hurt so much forever. Won't hurt so much, won't hurt so much forever. Won't hurt so much, won't hurt so much forever. I know you can't let go of anything at the moment, just know it won't hurt so, won't hurt so much forever. Won't hurt so much, won't hurt so much forever. Won't hurt so much, won't hurt so much. I know you can't let go of anything at the moment, just know it won't hurt so, won't hurt so much forever. Forever. Allo Parks, Hurt, questo pezzo è tratto dall'album Collapsed in Sunbeam. Siamo di nuovo in Inghilterra. È prodotto dalla Transgressive Records, sono 12 tracce. Ed è un album molto bello, molto ascoltabile, bello, sì. Molto godibile, ben arrangiato, ben scritto, insomma. Molto da tè caldo, poltrona, questo R&B, indie pop, indie folk. Molto interessante. Infatti ce la siamo goduta tutto. Un'artista che parte soprattutto dalle lyrics, quindi dai testi. Racconta, è giovanissima, insomma, ha 21 anni. Poco più di 20 anni, esatto. Quindi racconta giustamente le tematiche legate a quello che vive lei. Apertamente bisessuale, come dicevamo prima, quindi parte di una comunità queer. O si sente parte di una comunità queer di cui racconta le storie, le difficoltà e i disagi. Scrive anche perché il titolo dell'album è preso da una frase di un suo libro, On Beauty è il libro, che parla appunto sempre di famiglia, adolescenza, sessualità, e il titolo del disco è tratto comunque da un suo libro, quindi sono super creative, super... fanno un sacco di roba. Queste giovani ci piacciono. Esatto, e l'altra cosa che volevo dire è che è nata a Londra, cresciuta a Londra, ma insomma origini varie, nigeriane, passando per la Francia, il Chad. Esatto, quindi insomma anche lei viene da una cultura molto ampia. Ha una voce molto calda, molto bella, secondo me, molto molto bella. Lei dice che praticamente non ha registrato l'album in studio perché non gli piace quell'ambiente asettico e ha registrato l'album case case. Diciamo che oggi la tecnologia lo permette tantissimo. Quindi sì, perché lei dice: io compongo comunque quando sto in un ambiente familiare, in una stanza, posso fare un tè, un caffè, posso girare. Quindi ha anche inciso il disco così. E state ascoltando infatti un altro pezzo tratto da, mi sa, dall'album di cui parlavamo prima. E passiamo al prossimo pezzo, che dici, Pinklo? Sì. Il prossimo pezzo ci tengo tantissimo perché è una band che adoro, loro si chiamano Gustav e il pezzo si intitola Mine. What you said was mine. Gustav Mine, questo pezzo è tratto dall'album che si chiama Audio Drug for Ego Slobs, che è un bellissimo titolo, devo dire, e la cosa che mi ha catturato intanto, vabbè, a parte il sound, ma questo pezzo comincia con questa frase che dice You say I'm much too old to still be lo-fi, che significa dici che sono troppo vecchio per essere ancora lo-fi, che è una cosa che mi dicono spesso, quindi subito mi sono, diciamo, fatta prendere immedesimata in questa band di Brooklyn. Yeah, si sente che sono newyorkesi. Si sente che sono newyorkesi, fanno un po' pensare, l'album è molto carino, ascoltatelo, fanno pensare un po' ai Television, ma anche alle Slits, quindi insomma un po' di musica che arriva dall'Inghilterra, un po' di musica che arriva da New York, perché comunque ci sono tante ispirazioni. E tu stavi Story raccontando come è nato questo gruppo, che è nato tipo 2 anni fa. Sì, è nato poco prima della pandemia, diciamo, di fatto, perché loro sono riusciti a farsi un anno in giro suonando, ed è nato in maniera del tutto casuale, perché lei, credo la vocalist, doveva andare giù con un'altra band, insomma doveva andare a suonare in Texas a un festival, e doveva portare il furgone, non aveva voglia di portare il furgone, immagino, da New York a Texas da sola, e quindi ha detto dai vieni con me, e lei è andata. E però poi quando lei è arrivata lì, la sua vecchia band, che mi pare Girlfriends, si è praticamente, insomma, ci hanno avuto casini, si è sciolta, insomma non poteva, non c'era più, quindi dice adesso, dice vabbè, lei gli ha detto vabbè, mi hai portato, io suoniamo noi, e ha funzionato, perché hanno cominciato a fare date da lì, e con questo groove bellissimo di basso, cioè hanno comunque una ritmica abbastanza, hanno voglia di ballare, di far ballare, sono contente quando fanno ballare il pubblico, e si sono fatte un sacco di date. E poi è arrivato il lockdown, vabbè, volevano incidere infatti il disco, hanno rallentato un po', però ecco, poi l'hanno fatto, per fortuna nostra, che lo possiamo ascoltare. Assolutamente, hanno scritto un disco con delle liriche molto, anche, cioè, molto divertenti, molto autoironiche, molto, insomma, antieroiche, molto un po' fancazziste, ma ci sta, insomma, a volte ci può stare anche questa parte qui, quindi secondo me ascoltatelo, perché vi piacerà sicuramente. E sotto, in realtà, sotto, esatto, state ascoltando ESG, una band degli anni '80. Loro erano praticamente 3 sorelle del South Bronx, tre sorelle veramente, che diciamo, penso sia la band più non conosciuta, più diciamo ignorata, ma più talentuosa degli anni '80. Loro hanno fatto tantissime cose, hanno scritto tantissimi pezzi fantastici, e sono praticamente, pare, una delle band più, come si dice, da cui hanno preso più sample. Proprio i pezzi, sai, quelli che non paghi, per i quali usi solo i credits, sì, nell'album, quando rimani sotto i 30 secondi, penso, della storia. Se fate una ricerca su YouTube, trovate e mettete ESG sample, troverete una pazza che ha montato tutti i pezzi che hanno utilizzato solo una canzone che si chiama UFO, che è una delle più famose, e ci trovate veramente di tutto, e dite no, non è possibile, tanto è vera questa cosa. E loro hanno, a un certo punto nel 93, inciso nel 92 credo, inciso un album, un EP in realtà, che si chiama Sample Credits Don't Pay Our Bills, che significa i sample credits, cioè gli ringraziamenti che ci mettete, diciamo, sull'album, però non ci fanno pagare le bollette. Quindi magari vecchio problema. Dateci due spicci, diciamo. Vecchio problema. Sono le 19:19, siete sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, e adesso passiamo ad un'altra canzone, Anika, Finger Peace. Just for a minute. Some may say that you are Annika Finger Pies, tratto dall'album Change, di credo sia uscito alla fine di luglio di quest'anno. Ricordiamo che siamo sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, ci ascoltate in streaming e siete tante, tanti, grazie. Ondarossa.info. Se ci volete scrivere, likewise, @ondarossa.info. Scriveteci, dai, non fateci sentire soli. No, 0649 1750, se ci volete dire che il pezzo vi è piaciuto. E questa era Annika, Annika Anderson, è una musicista. In realtà la musica in realtà è l'ultima cosa che fa, perché è una giornalista, una performer, una scrittrice, e poi ha inciso quest'album dove ha messo un po' di testi e un po' di musica elettronica. Insomma, è un album abbastanza particolare. A me è piaciuto, ha raccolto critiche diciamo diverse, alcune entusiaste, altre un po' che raccontavano che forse è un po' immaturo, manca un po' qualcosa, i testi sono un po' drammatici, ma a noi ci piace. Vabbè, ma noi il dramma è di casa, quindi figurarsi se ci turbiamo del dramma. No, no. Sì, a tratti fa pensare un però po'. È una bella voce, un bel sì, un po' colore, amico, no? Un un po' mi fa pensare anche all'artista che abbiamo messo sempre qui alla Quais, Circuit de Joux, che insomma ha questa profondità, no? Questo tono un po' basso, intenso. Quindi a noi è piaciuto Change, Annika. Questo era sempre un altro pezzo suo dal stesso disco, si chiama Critical. E il prossimo pezzo in realtà un po' lo dobbiamo introdurre, nel senso che è uscito qualche tempo fa un EP di Lord, che è un artista che abbiamo, sì, che ci aveva entusiasmato poco dopo l'estate, mi sa. Esatto, credo a settembre, sì, che ci aveva entusiasmato, insomma, che ci piace molto, neozelandese. E il disco è un EP, credo siano 5 pezzi in tutto, inciso anche in lingua maori. E questa cosa, insomma, lo sapete che cerchiamo anche di raccontarle queste storie che sono molto interessanti, è stata presa da un lato positivamente da una parte della comunità artistica maori, perché comunque c'è tutto un movimento che cerca di utilizzare la lingua maori in, diciamo, nella musica in vari generi musicali, quindi è stato apprezzato da altri, e da altre invece è stato un po' snobbato come un tentativo di appropriazione culturale. Ma siccome a noi l'album di, lo possiamo dire, di Lord, lo possiamo dire, dai, non c'è piaciuto. Anche perché siamo d'accordo incredibilmente, quindi non ci è piaciuto. Vedi che a volte likewise è vero, cioè alla fine ci ritroviamo. Alla fine ci troviamo, sì. Non ci è piaciuto per niente, però ci ha dato una cosa non bella. Abbiamo più l'età, dai. Per il dream pop tutto, ma il dream pop. Io il dream pop lo amo, però quello no. Suo che è venuto fuori in questo album, no. Però in realtà ci ha dato spunto per andarci a cercare un po' di quello che stanno producendo, insomma, la comunità maori, artistica maori ovviamente, e abbiamo trovato questa bella artista che si chiama Rhea Hall e il pezzo si chiama Owner. Owner 했다 놨다 너 나 때문에 Questa era, non so come si pronunci, se Ria, come si scrive, o Raya Hall, in ogni caso è questa artista neozelandese molto brava, ha fatto in realtà questo album dell'anno scorso ed è un album diciamo ispirato al reggae, al soul degli anni 70, quindi insomma si sente molto, e il titolo Maori, perché in realtà stavate ascoltando la lingua Maori, è Rangatira, tradotto in inglese Owner. Lei scrive sia in lingua Maori che in inglese, ci sembrava molto interessante, e io te l'avevo detto, tu sai che appunto esiste anche, mettiamo anche un po' di reggae quando capita, quando ci piace e quando... Ma poi pensa, il reggae in Maori, il reggae neozelandese in Maori. Beh, interessante. Perché, sì, esatto. È interessante. È interessante, una bella voce, una bella artista. Insomma, cercatela e supportatela anche sul suo Bandcamp se vi piace quello che fa. Ah, beh, ho messo sotto, perché poi l'abbiamo trattato male, ho messo sotto di noi l'ordine. Calunniata senza pietà. Ma guarda che è meglio l'EP in Maori che comunque tutto il suo disco, davvero. Wai uri, wai ponamu, kani, ana na moru. Ora, sai che sembra? Sembra la colonna sonora di Oceania della Disney. Con tutto il rispetto delle colonne sonore di Oceania della Disney, che comunque è un bel cartone a mio avviso, poi non lo so se volete litighiamo, però comunque tutto sommato è un bel cartone, diciamo che è Pixar, Disney, quindi già va meglio quantomeno per tutta una serie di tematiche, però sembra quello, cioè proprio quel pop, veramente pop, che più pop non si può. E quindi noi l'abbiamo cassata, però insomma la ringraziamo, cioè, per dirlo io. Però la ringraziamo perché ci ha ispirato, insomma, in qualche modo. Quindi la musica serve anche a questo. Sì, no? Anche perché connessioni. Come le scorse puntate, anche questa settimana stiamo cercando di farvi ascoltare tutti i dischi e brani, insomma, usciti in quest'anno solare, si direbbe quest'anno che sta per giungere al termine, però sì, sono tutti album usciti adesso, cioè quest'anno, entro quest'anno, in questi mesi, quindi sì. E siamo felici di tenervi compagnia nel traffico di Roma, come ci fate sapere, lo sappiamo, il traffico poi in queste settimane comincia veramente a schizzare a livelli impossibili. Ma quindi speriamo nel traffico, no, speriamo nel non traffico anche di altri posti, insomma. Ma certo, no, certo, siamo dove ci ascoltate, noi siamo felici comunque. E andiamo avanti. Sanssouci Games. small minds are the tyrants and hunger of diamonds is latent. Why don't you play? Why don't you play? Why don't you play? Why don't you play? Why don't you play? Why don't you play? Why don't you play? Why don't you play? It smells of the market. Don't break the modest harmonic geometry of what you have never invented. Why don't you play? Why don't you play? Why don't you play? Why don't you play? Why don't you play? Why don't you play? Why don't you play? Why don't you play? The first day you're crying, the last day you're weeping. That's why you call holiday. Remember to smile even on your way back. The line between starting and why don't you play? Why don't you play? Why don't you play? Why don't you play? Why don't you play? Why don't you play? Why don't you play? Why don't you play? E questa era Sans Souci, che significa senza preoccupazione, senza pensieri. Che sì. Fit Cécile Kyenge, che diciamo è l'ex ministra, è stata ministra dell'integrazione, penso fosse, no? E, sì. Eurodeputata e anche mamma della musicista che vi abbiamo proposto, che si chiama Giulia Crispino, è una italiana congolese ovviamente, e di base a Londra, che è andata a Londra per sì. suonare e ha prodotto esatto. questo molto carino, devo dire, questo EP sì. che si chiama In Time For Her, molto ascoltabile, molto godibile, secondo me ha stoffa. Farò. Sì, l'EP ha 7 tracce, quindi in realtà è a metà strada tra un EP e un disco, perché da già 7 tracce siamo sopra i 20 minuti di musica. Hai sforato. No, vabbè, però un EP sono 4-5 pezzi massimo, 7, diciamo che stai quasi al disco, ma non sei al disco perché non sono 10, insomma, quelle cose un po' sceme che però, vabbè, caratterizzano. E ti fanno andare in giro, insomma. Comunque alle 19.37, per chi lo aspetta dalla prima puntata, non lo sa, noi lo aspettiamo, noi stessi lo aspettiamo questo momento dalla prima puntata, perché finalmente vogliamo farvi ascoltare la nostra sigla per intero, cioè la canzone che insomma abbiamo utilizzato per fare la nostra piccola sigletta per intero. E quindi la possiamo anche presentare finalmente. Lei è Sampa the Great e il pezzo si intitola Oh My Gosh. God is finest, wonder what after my primes. Never underestimate your highness. Stripped in melanin, galaxy's finest. Put a bit of pressure on the spirit at the highest. Do it, I will, do it, I will. If they don't believe me, then you betcha I will. If they don't believe me, then you betcha I will. Better be happy, love for the betcha I chill. Flow. Oh my gosh, you never know what you got till it's gone. Oh my gosh, where am I going? Oh my gosh, if I'm on CD, oh my gosh, guess you never know what you got till it's gone. seeing kids' cheeks. Got my Aunt Louise. Took a lot of effort just to get her from the heat. Daddy adolescent said he get her from the streets. Give them good feet, let them grow the feet. Fly him out of Africa, get the kids a breed. Show them how to other half how the world is. Show them how to other half how the world is. They don't know me. They don't know. They can't hold me. They can't hold. They box, they box, they talk. I know they can't show. Please believe me. They deceive me. They flex, they flex, they flex. I know they can't see me. Quanto ci piace questo pezzo? Bellissimo. Se no non l'avremmo scelto. Sampha the Great, il pezzo si intitola Oh My Gosh, come avrete diciamo indovinato probabilmente. Lei è Sampha Tembo, è una cantante, lei è cantante autrice zambiana naturalizzata australiana, è del 93, quindi ha tipo 28 anni, insomma, forse è la più anziana, del gruppo di stasera, sì. Sì, escluse noi ovviamente. Escluse noi, no, che non facciamo testo. Sì, esatto. È in giro dal 2014-2015, è una autrice e rappa. Fa delle performance fantastiche, è molto interessante anche la sua evoluzione musicale. Come dicevo, è naturalizzata australiana, è andata a studiare in America, poi si è trasferita in Australia e ha un legame fortissimo, insomma intenso, con la sua terra d'origine. Leggevo un'intervista molto molto carina in cui lei raccontava che in qualche modo non sa più dove collocarsi da un punto di vista culturale, perché è troppo australiana per la sua terra d'origine, è troppo poco australiana per l'Australia, e lei sente che tutti questi posti del mondo in realtà fanno parte di lei stessa e della musica che propone. Break the walls, my heart. We ride back to the start. No need for expectations. Start with nothing and the heart ended up. Fantastica. È un bellissimo flow, sì. Fantastica. E sulla scia di Erika Badu. Sì, scia di tutte, testi molto, molto interessanti, molto importanti. Parla di dignità black, parla di femminismo, parla di insomma tutti i temi che ci stanno a cuore. Sì, questo era Leading Us Home, è sempre il disco, è sempre The Return, e ricambiamo genere. Ricambiamo. Perché noi andiamo, siamo fluide, musicalmente siamo molto fluide. Assolutamente fluide. Questo pezzo si intitola 405 ed è Metronomy 4 Big Pick. Thank you. Questa era 405 Metronomy, che è un band che ruota intorno a un artista, si chiama Joseph Mount, ha scritto questo pezzo per Big Pig e ci dà l'occasione di parlare di Big Pig, che è un'autrice e una musicista di origine irlandese. Comunque questa canzone qui era proprio precisa da 30 novembre. Cioè, tipo da tempo quello che piove, la finestra, tu che guardi fuori, gli alberi, non lo so, io quando queste canzoni mi vedo meditativo. Tutto un paesaggio quando sento le canzoni. Questa mi sembra proprio una canzone da pioggia. Un po' sognante, un po' sognante, anche un po' sempre malinconica, un po' triste. Che dici vabbè. Vabbè, anche questo pezzo, insomma, Big Pig, dicevo, artista irlandese cresciuta in realtà in Spagna. Infatti io l'ho conosciuta, l'ho ascoltata la prima volta che, perché lei scrive sia in spagnolo che in inglese, essendo poi ritornata in Irlanda e poi in Inghilterra dove vive e lavora, e quindi insomma scrive testi in realtà sia in spagnolo che in inglese, che è una cosa molto bella anche questa. Raccontava in un'intervista che una volta tornata in Irlanda circa 13 anni, nonostante fosse cresciuta con genitori irlandesi, avendo fatto le scuole in Spagna, lei parlava solo spagnolo, e quindi quando è ritornata in Irlanda è stato uno shock culturale fondamentalmente. Quindi è una cosa molto, questa storia del bilinguismo è una cosa fantastica. Stiamo girando tanto questa puntata, stiamo girando tanto, tanti paesi, tante influenze, perché per noi non ci sono confini. Assolutamente. E non ci dovrebbero essere per nessuno, in realtà. In effetti. Naked, upset, I wouldn't take you for the shy type. Not yet, but then again, who knows? Honey, there's no ties, no net. You gotta follow with your instinct. What's next? No sense in trying to find reason. E questo è sempre Big Pig, B-I-G con due I, Pig con due I, se volete cercarla, insomma, perché l'ultima cosa è del 2020, credo, dell'anno scorso, però insomma è molto interessante, molto piacevole, è molto ascoltabile. Questo pezzo che ascoltavamo era Feels Right. Sono le 19.50, quindi a noi rimangono due canzoni da farvi sentire prima di passare i microfoni di Radio Onda Rossa a Note Cose Città. Ok, dai, Rachel Chinoiri. Chosen, no excuses, ruthless if if you ask me. You want this money, if you're truly happy, let us be. Never be more in love, nobody else but come si intuiva, era questa era Give Me a Reason. Lei è Rachel Chinouriri, è una cantautrice, anche lei in realtà londinese, comunque in inglese, anche se ha origini dello Zimbabwe. E la sua famiglia è arrivata in Inghilterra poco prima che lei nascesse, perché lei è la seconda o la terza di quattro fratelli. È una di quelle ragazze che aveva voglia di suonare già da abbastanza giovane, come abbiamo sentito stasera per tante. Infatti a 17 anni ha iniziato a registrare alcune canzoni con il PC della madre, è un banalissimo microfono da 20 sterline, e le ha caricate su SoundCloud. Si vede che le cose sono andate bene, perché poi ha proseguito con un'altra EP e qui in realtà ha realizzato anche il video di una sua canzone, so My Darling, la fatto da sola con la sua telecamera, e poi ha chiesto agli amici di mandargli degli audio su alcuni temi, insomma di aprirsi, insomma a parlare di amore, di perdita, e si sentono gli audio, gli ha montato tutto questo. Quindi una persona, una ragazza molto creativa anche lei. Questo è un diciamo tra l'EP e il disco, anche questo che sono 8 tracce per 23 minuti di musica, si chiama Four in Winter, e ci sembrava una cosa carina da farvi ascoltare. E siamo quasi in chiusura. Sono quasi in chiusura, sono le 19:56. Questa è sempre Radio Onda Rossa. Dopo di noi ci saranno Te Cose e Città. Questo invece è Likewise. E quindi adesso vi presentiamo l'ultimo pezzo della serata. E l'ultimo pezzo è Green Tea Pang. Dai, così rimovimentiamo, perché ci è venuto un calo tipo di quelli un autunnali verso l'inverno. Sì. Tipo il malinconico, quello tipo c'è freddo. Esatto. Green Tea Pang, il pezzo si chiama You Man. Searching for balance, praying for clarity. Must strip me naked, take this identity. Tell me it's unity. In Lakesh, I look in, I am you, you are me. Searching for balance, praying for clarity. Must strip me naked, take this identity. Tell me it's unity. In Lakesh, I look in, I am you, you are me. I wear clothes I like to hide, so no one knows where that made from. Deep in my soul, taken from home, so far we strolled. Deep in these roads, think we control this shit, we don't. But fuck, we could, I wish we would throw away these phones. Get a bit more holy, see the world more slowly. Take tests for roses. Searching for balance, praying for clarity. Mars strip me naked, take this identity. Tell me it's unity. In la kesha, like in I am you, you are me. Searching for balance, praying for clarity. Marsh strip me naked, take this identity. Tell me it's unity. In la kesha, like in I am you, you are me. See, all I know is that I know nothing at all, this shit is so mystical, magical. And no, we don't know our potential. How could we when they lie? They cast spells and they try dropping bombs from the skies like we are not stars. Inside me there's a war. Questa è la Green Tea Peng, anche qui West London, però con Africa e Arabia, si può dire afro-arabica, stiamo coniando noi questo termine, quindi tante diciamo culture nel suo background e ovviamente un artista molto giovane e molto interessante. Io l'ho conosciuta attraverso una piattaforma tedesca che si chiama Colors, forse qualcuna di voi la conosce, si chiama, se volete cercare, è Colors per xstudio.com.com, e dove ha fatto un'esibizione fantastica secondo me, ed è un artista molto molto interessante. Il disco era Man Made, la casa discografica è l'MF Records, è uscito anche questo nel 2021. I brani del disco, questi sono invece 18, sono le 20:54, quindi il nostro spazio per questa settimana è finito. Vi ricordiamo che state ascoltando Likewise e che siete su la frequenza di Radio Onda Rossa, gli 87.9. Speriamo di avervi fatto fare un bel viaggio, che sia stato piacevole. Era un po' autunnale, invernale, ma d'altra parte è arrivato il freddo a Roma, quindi era un po' inevitabile, cioè quello lo subiamo tutti. Che ci avrebbe influenzate. Esatto. Vabbè, buon ascolto, restate ai microfoni di Radio Onda Rossa tra poco, Note, Cose e Città. La radio è senza padroni e senza padrini, quindi finanziatela, e vi ricordiamo che è uscita anche Scarceranda. Donna Sonica e Pink Love vi salutano, Likewise alla prossima settimana. I'm all or nothing, you know what I mean. I can't lie, I need you, Mr. Sun. Likewise. I can't lie, I need you, Mr. Sun. God is finest, wonder what after my primest. Never underestimate your highness. Stripped in melanin, galaxy's finest. Put a bit of pressure on the spirit of the highest. Do it, I will, do it, I will. If they don't believe me, then you betcha I will. If they don't believe me, then you betcha I will. Better be happy, love, for the betcha I chill. Give them the feet, let them go to feet. Flying by the Africa, get the kids to breathe. Show them how the other half, how the world is. Show them how the other half, how the world is. They don't know, they don't know. They can't hold, they can't hold. They box, they box, they talk, I know they can't show. Please believe, please. they flex, I know they can't see me. Oh my gosh, if a man see me, oh my gosh, guess you never know what you got to do.